principessa, a tuoi sguardi, se offrirmi ardisco ancor, più non mi guida un temerario affetto, altro non cerco che appagarti e morir. Morir, tu prence! Un fiero mostro fa dappertutto orrida strage, or questo combatter si vada e vincelo si tenti, o finisca la morte i miei tormenti. Vivi, vivi a te chiede. O dei che ascolto, principessa adorata. Il cuore turbato appena il custode la debolezza mia, pur troppo amore e tema in divisa resta. Vado, o sol quel che brama finge l'udito, oppure il grand ardore m'agita i sensi, il cor lusinga oppresso un dolce sogno. Ah, perché pria non arsi che scoprir la mia fiamma? Mille io sento rimorsi all'alba. Il sacro mio dovere, la mia gloria, la patria, il sangue dei miei ancor fumante, quante fare, rimproverai il mio ribelle amore. Estremo ti vedo caro, e trarti solo io posso, odi, io te Thank you. Genitor! fai il crudo mostro. Ammira allagate di sangue quelle pubbliche vie. Ad ogni passo vedrai chi geme e l'alma gonfia d'acro veleno dal corpo e sana. Mille e mille di calambio e sozzo ventre prese folli che morti per rire io stesso tiri. Thank you. frange di davante l'eroe, di morti in traccia, disperato correndo, il trionfo trovò sull'empio ostro, scagliossi furibondo. Il vinse e uccise. Eccoci salvi al fin. Questo estremo periodo fatal, su quella destra che il varco al sangue tuo nelle mie vene aprir dovrà, gli ultimi baci accetta. Ora comprendo. Comprendo che il tuo turbamento sdegno non era già m'amor paterno. Mille volte e mille fortunato in amante, se chi vita di die vita ti toglie, togliendola a te la rende al cielo, e dal cielo la sua in cambio impetra, ed impetra costante a sua la pace, ed è nubi il lavor sacro e verace. Vittima volontaria, idolo mio, detto a me del tuo amario, l'ultimo. pace, lasciami di morire per la mia patria. Come sospetto? Oddio! Gratitudine in me! In me, dov'è? Ma che dispensa amore? O insieme noi mari remo. No, sola io vo varcare il nuovo estremo. A te, sacro ministro. Thank you. sacrificio è sciolto il voto. Nettuno e tutti i lumi a questo regno amici son. Resta che al cenno loro ti domenea ora ubbidisca. Thank you. Thank you.